Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dai dati, devo dire, all'interno di un contesto difficile, difficilissimo ancora, sulla disoccupazione. Per la prima volta da mesi abbiamo avuto un dato che è in miglioramento, e quindi questa settimana, ripeto, senza nessun tipo di falso ottimismo o di così eccesso di visione in qualche modo positiva, e questa settimana è la settimana, ne parleremo nella seconda ora con il nostro ospite in questi casi, spesso venerdì, l'economista, storico dell'economia Giulio Sapelli, è una settimana in cui sono arrivati alcuni dati positivi. Devo dire che con una tale frequenza era un po' che non li vedevamo. Mi riferisco alla Banca d'Italia, che ha rivisto la crescita per il 2015 all'1%, al Centro Studi Confindustria, che ha rivisto anch'esso la crescita a rialzo, effetto petrolio ed euro, e Draghi per il 2015, con un leggero aumento dell'occupazione e calo della disoccupazione sempre nel 2015. Ieri l'Istat segnalava, registrava una fiducia in aumento sia su imprese che su consumatori. Oggi sempre l'Istat ci fa sapere che la disoccupazione è calata di 0,4 punti a dicembre rispetto a novembre, è scesa dal 13,3 al 12,9. Allora, è il primo segnale di un rientro ed è il valore più basso da settembre. Allora, attenzione, perché da questo punto di vista, tra l'altro, il calo dei disoccupati è il più forte dal 2011. Sono calati di 100.000 i disoccupati in un mese, restano un livello altissimo, inaccettabile, 3.200.000 persone. La disoccupazione infatti è ancora al 12,9. Faccio notare che prima della crisi eravamo arrivati al 7,8% di disoccupazione, quindi è quasi raddoppiata. Però, guardando i segnali di settimana in settimana, di giorno in giorno, di mese in mese, è innegabile che ci si siano creati 100.000 occupati in più. Questo è il dato. Anche sui giovani si è scesi, a novembre era il 43%, la disoccupazione giovanile è scesa al 42%. Ripeto, un livello sempre inaccettabile, ma qualcosa sembrerebbe iniziare a muoversi. Tutti questi condizionali che usiamo è perché veniamo da 3 anni in cui ogni volta si diceva che la ripresa doveva essere l'anno della ripresa, e poi così non è successo. Però forse questa volta, ripeto, complici le variabili esterne, qualcosa di concreto dovrebbe vedersi. Anche di questo parleremo. Parleremo della Germania con un noto tedesco, è un collega, è Tobias Spiller, è il corrispondente, spesso lo vedete in televisione. Corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung dall'Italia, è uno strenuo difensore della linea tedesca, però ne parleremo con lui perché oggi di nuovo c'è stato un botta e risposta tra Grecia e Germania. A questo punto il ministro delle finanze Schäuble ha detto siamo difficili da ricattare, e ha ribadito il no di Berlino a un'eventuale richiesta di taglio del debito pubblico da parte della Grecia. Faccio notare che da un lato c'è un sondaggio in Germania dove un tedesco su due sarebbe pronto a venire incontro alla Grecia, e addirittura il 16% sarebbe favorevole a un taglio. E faccio anche notare che va bene tutto, ma dire che la Germania non si fa ricattare, a noi è sembrato in questi anni che fosse stata la Germania a ricattare, se vogliamo usare questo termine, il resto dell'Europa. No a Draghi, no a tutte le misure, dubbi su tutto, dubbi anche ricorso alla Corte Costituzionale tedesca, ricorso alla Corte Europea, ostilità nei confronti del piano d'acquisto di Draghi, dei titoli di Stato, no a qualunque ammorbidimento del patto. Cioè, il ricatto che in questo momento c'è stato in Europa non è certo. Adesso va bene tutto, la Grecia ha molta responsabilità, ma non possiamo dire che la Grecia stia ricattando l'Europa. Casomai sono i tedeschi che con i veti impongono una certa linea che si è rivelata fallimentare, e anche di questo parleremo, perché nel frattempo il neo ministro delle finanze greco, Varoufakis, ha detto di non avere alcuna intenzione di collaborare con i funzionari della Troica, quindi BCE, Commissione Europea e Fondo Monetario, per l'estensione del programma di salvataggio della Grecia in scadenza a fine febbraio. Serve un nuovo accordo con spirito di cooperazione. E da Berlino ribattono: attenzione, il dibattito sul taglio del debito è un divorzio dalla realtà. Beh, insomma, eventuale prolungamento potrebbe essere fatto solo con un programma di riforme. Anche di questo parleremo. E poi, come sempre, i dati di borsa. Allora, per quello che riguarda la borsa, faccio notare che in questo momento l'indice è negativo a Milano dello 0,75%. Per quello che riguarda le altre borse europee, Parigi perde lo 0,90%, Francoforte lo 0,70%, Londra meno 0,40%, l'America cede lo 0,80%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo sulla borsa, perché tra i titoli segnaliamo in positivo Tenaris più 2,70, Saipem più 2,30, World Duty Free più 2, Pop Milano più 1,80 come Ferragamo, l'1,70 lo guadagna Buzionicem, l'1,60 Autogrill, l'1,30 Telecom e Unipolsai, ma anche Jux, Finmeccanica più 0,70, Pirelli più 0,50%. Nuovo scivolone pesante, ne parleremo durante i mercati finanziari, del Monte dei Paschi di Siena. Oggi è arrivato a perdere l'8% dopo che è stato levato il veto, diciamo il blocco delle vendite allo scoperto, e inizia a circolare il timore che l'aumento di capitale, stimato in 2 miliardi e mezzo dopo la bocciatura del Monte dei Paschi assieme alla Cassa di risparmio di Genova degli stress test, possa dovrà essere più consistente. Però vanno male oggi tutte le banche: Unicredit meno 3,70, UbiBanca meno 2,20, Pop Emilia Romagna meno 1,70, Intesa San Paolo meno 1,45%, Mediobanca meno 1%, Banco Popolare meno 0,50%. Ho detto tutte le banche, in realtà la Popolare di Milano guadagna l'1,60%. Allora, le altre notizie, dove partiamo? Come sempre dagli esteri, per quello che riguarda gli Stati Uniti, la notizia è, non è bellissima, anche se stiamo sempre parlando di un'economia in netta crescita, più 2,6% il PIL nel quarto trimestre, sotto le attese, però nel 2014 gli Stati Uniti sono cresciuti del 2,4%, è il livello più alto da 4 anni. Vedo alcuni messaggi di ascoltatori che dicono: attenzione, il dato della disoccupazione riguarda solo i lavoratori a chiamata stagionali per il mese di dicembre. Ma certo, una rondine non fa primavera, ragazzi. Nessuno sta dicendo che questi dati, ed è probabile che ci possa essere anche un effetto congiunturale, però voglio dire, attenzione, ho detto 32 volte, il dato sulla disoccupazione giovanile è inaccettabile, è drammatico, anche se scende dal 43 al 42 è sempre un dato pesantissimo, così come la disoccupazione al 12,9 è altissima, non alta, altissima. E non me ne frega niente se Renzi si prenderà il merito o no, i governi non creano l'occupazione e non creano la disoccupazione e la congiuntura, poi possono creare le condizioni di contesto, però un'impresa, e ci sarà tutta la polemica sul Jobs Act. A me interessano i dati e, diciamo, come si stanno muovendo questi dati. sono d'accordo che come dire che un uomo in coma da 7 anni ha appena mosso un dito, va bene, però quando un uomo muove un dito dopo 7 anni di coma, visto che sono 7 anni che siamo in crisi, no, 7 no, dai, 2000, quasi 7 ormai, a ottobre del 2015 facciamo 7, insomma, quando si muove un dito, il commento è si è mosso un dito, appunto, non è che si è risvegliato dal coma, ma si è mosso un dito, c'è un segnale di risveglio, lo possiamo dire. Allora, assolutamente condivisibile il commento di Salvatore Padura. Pochi istanti fa l'Istat è uscito con un flash d'agenzia che dice sostanzialmente che sono attesi altri segnali positivi sul dato dell'occupazione. La situazione del lavoro resta difficile, ma sono attesi miglioramenti. Faccio notare che 2 giorni fa il centro studi Confindustria aveva stimato un aumento dell'occupazione e un calo della disoccupazione anche quest'anno, perché, o meglio quest'anno, perché molte aziende avrebbero atteso la riforma del mercato del lavoro prima di fare le assunzioni, anche comprensibile, le fai con la nuova legge. E qualcuno mi dice: dia il merito a Renzi, non faccia il pesce in barile. Ma merito a Renzi, Jobs Act, se funzionerà, è sicuramente merito del governo. In questo momento, su dicembre, è difficile dare un merito al governo. Diamo i meriti a chi se li merita. Allora, iniziamo a dare il merito a Mario Draghi di avere avuto la forza di andare contro quell'atteggiamento masochista della Germania e avere concesso una cosa che sembrava impensabile, l'acquisto del titolo di Stato dei paesi, e aver portato su anche con questo, oltre che con la forza dell'America, l'euro sul dollaro a quota 1,12. Poi dobbiamo capirci, perché se le notizie sono negative dite: oh mamma mia, sempre negativo, tutto negativo. Se c'è qualche notizia positiva ci dite che stiamo facendo, siamo gli ascari e così i servi del governo, che vogliamo vedere tutto positivo, non conosciamo la realtà. Mettiamoci d'accordo, la realtà è difficilissima, usiamo l'esempio dell'uomo in coma che muove un dito, che batte le ciglia, bene, almeno abbiamo visto muovere un dito, battere un ciglio. Restando invece su notizie di economia, se l'America ha avuto un 2014 che è il più bell'anno come crescita economica da 4 anni, la Russia oggi continua a soffrire. Perché? La banca centrale a sorpresa ha tagliato i tassi dopo averli rialzati, adesso li ha ritagliati dal 17 al 15%. Ovviamente, come sempre accade, se abbassi i tassi di interesse si deprezza la tua valuta, e infatti il rublo è andato in caduta libera a 70 rubli su un dollaro e a quasi 80 rubli per un euro. Ancora due notizie, una di carattere europeo: la deflazione non c'è solo in Germania, con buona pace dei tedeschi che dicevano la deflazione non c'è, è sempre più giù, meno 0,6% a gennaio nell'euro a 18, e tra l'altro in Spagna siamo al meno 1,5%, è il livello più basso dal 1997. Però la Commissione europea dice: beh, non è ancora deflazione conclamata. Ma cosa vuol dire? Così un portavoce della Commissione europea. Cioè, è passata da meno 0,2 di dicembre a meno 0,6 a gennaio, però non è ancora deflazione. Come la chiamiamo? Non inflazione? O diciamo prezzi in calo? Li paghiamo pure questi. Andiamo avanti sull'Italia invece, mentre il governatore della Banca d'Italia Visco dice che si attende, invita a essere ottimisti, lo dice Visco, non io, e ricorda come anche da noi i segnali sulla ripresa del PIL siano positivi dopo gli interventi della Banca Centrale Europea, oggi tra l'altro il Tribunale di Milano sull'Ilva ha dichiarato lo stato di insolvenza. C'è un indebitamento di quasi 3 miliardi. Nel frattempo a Genova sono tutti in agitazione, il comune e la regione preparano una missione a Miami nel quartiere generale del colosso Carnival per scongiurare il trasferimento di 4 dipartimenti di Costa Crociere con 160 lavoratori ad Amburgo, annunciati ieri dalla Carnival. Ecco, va bene tutto, però la missione a Miami del comune di Genova, della regione Liguria, dell'autorità portuale, visto quello che abbiamo letto in questi mesi anche sulle spese della Liguria, fatela in pochi, uno a testa, cioè bravi ma pochi. Non iniziamo con le missioni che, con la scusa, poi c'è pure bel tempo a Miami in questo periodo, allora, e qua fa freddo, mi raccomando, e non dite che siamo populisti, stiamo raccontando da anni sprechi anche per le missioni internazionali. ci sono 161 lavoratori, fate bene a fare una missione all'osso, però, come si dice in gergo, ok? Alberghi a 3 stelle, economy, me ne frega nulla, alberghi a 3 stelle, economy, vai e torni, fine. Comune di Genova, Regione Liguria, autorità portuale, va bene, ognuno che conti però. Ultima nota, le banche, lo sciopero oggi secondo la Fabi ha toccato il 90% dei bancari, gli sportelli chiusi al 95% e Leoni dice la politica dei no produrrà nuove astensioni dal lavoro, gli risponde l'ABI. Sia il rinnovo ma con un confronto a breve, occorre conciliare la redditività con le esigenze di occupazione e dei salari. Vabbè, qui siamo all'ovvio. Allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema, i segnali positivi anche oggi per la nostra economia, e mi riferisco all'occupazione e alla disoccupazione soprattutto. Mentre però c'è un rapporto annuale dell'Eurispes che fotografa fotografa il paese ancora in coma, se vogliamo usare l'esempio di prima, sebbene qualcosa si muova, ma una difficoltà tremenda, quando dico paese intendo dire soprattutto le famiglie di questo paese. Chiaramente Barisoni tu ce l'hai con la Germania. No, ma glielo dico proprio testuale, ce l'ho con la Germania. È 3 anni che ce l'abbiamo con la Germania e con le politiche che ha adottato. Non, è inutile che pensi di insultarmi in questo modo, caro ascoltatore. Ce l'abbiamo con la Germania, con la Finlandia, perché leggiamo anche con l'Olanda, con tutti i paesi che, come diciamo, dei ciechi guidati da un cieco, chi era Bruegel, il vecchio, vado a memoria, tutti in coda verso il baratro. Infatti gli Stati Uniti hanno conosciuto l'anno, il recupero dell'economia più forte da 4 anni, la Gran Bretagna che non ha adottato i nostri criteri, va bene, ma noi continuiamo invece a perseverare sul patto di stupidità. Dicevo dell'Eurispes, l'Eurispes, allora il 65% dei lavoratori in Italia teme di non poter sostenere la famiglia. Per 8 italiani su 10 è impossibile risparmiare, il 47% degli italiani non arriva a fine mese con le proprie entrate e siamo a un 16% in più rispetto al 2014. Il 71% degli italiani ha diminuito il potere d'acquisto, leggo tutti i titoli dell'Eurispes. Il 47% degli italiani paga a rate le spese mediche e per il 58% dei lavoratori è difficile fare progetti vista la situazione economica. Il 45% degli italiani si trasferirebbe all'estero, faccio la battuta, il restante 55% l'ha già fatto. E poi per 4 su 10 sarebbe più utile uscire dall'euro. Poi ti chiedi perché non ripartono i consumi, ma avrò modo di discutere con chi invece difende, pur da giornalista, tutta la politica tedesca, e mi riferisco a Tobias Spiller che sarà tra poco nostro ospite. Professor Pietro Garibaldi, che insegna economia e politica all'Università di Torino, direttore del Collegio Carlo Alberto, uno degli esperti, degli economisti che più scrive di occupazione e anche di riforma di mercato del lavoro. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, come leggiamo questo dato? Senza facili entusiasmi, senza nessun trionfalismo, però la disoccupazione giovanile dal 43 scende al 42 a dicembre, la disoccupazione complessiva scende dal 13,3 al 12,9, sono 100.000 occupati in più. Io ho ascoltatori particolarmente, insomma, dei peperini e dicono sì, ma questi sono a dicembre, sono i lavoratori occasionali per un mese, ci sono c'è il Natale, i negozi aprono, ci sono i pacchi da consegnare, è così? No, dunque, due cose, uno, il dato è destagionalizzato, è quello che comunque bravo. L'Istat ha già rimosso questi movimenti che sono dovuti alle variazioni stagionali, quindi prima crediamo all'Istat, l'Istat fa un buon lavoro come tutti gli istituti europei, il metodo è lo stesso e quindi i numeri sono quelli sia quando sono più positivi sia quando sono più negativi, quindi non è un problema di stagionalità. Il dato importante tra quelli che lei ha ricordato è il dato dell'occupazione, sulla disoccupazione poi torno. Il dato occupazionale è certo, abbiamo circa 100.000 occupati in più rispetto a un anno, che è un dato comunque importante, nonostante abbiamo perso diversi milioni negli ultimi 5-6 anni di posti, e in particolare anche che inverte una tendenza di ottobre e novembre in cui avevamo una diminuzione del numero di occupati. Il numero di occupati è la cosa più facile perché si contano le persone che lavora. Sì. Ora siamo tornati ai livelli di settembre, stiamo sempre parlando. Ma infatti, no, tra l'altro, la stessa Sabadini oggi dell'Istat ha chiarito durante il programma di Simone Spezia, Effetto Giorno, che il dato è destagionalizzato. Io l'avevo raccontato, però è giusto che lo dica lei, visto che poi se lo dico io sembra sempre che stia tirando l'acqua a qualche mulino, perché sicuramente poi ci può essere un elemento congiunturale a dicembre, ma dire che il precario preso per un mese perché doveva consegnare i pacchi è il motivo per cui i pacchi natalizi è il motivo per cui, in questo periodo è meglio specificare, è il motivo per cui la disoccupazione scende, è un'inesattezza, altrimenti ogni volta avremmo picchi o cali di disoccupazione a seconda della stagione. Dopo il meteo, professor Garibaldi, vorrei capire da lei se condivide, visto che lei ha scritto anche vari progetti di riforma del mercato del lavoro, se condivide quanto stimato in questi giorni da Banca Italia, dal Centro Studi Confindustria, e cioè che probabilmente un'ulteriore spinta, anche l'Istat oggi lo dice, alla riduzione della disoccupazione potrà arrivare nel 2015, anche perché molti sono rimasti un po' in attesa di vedere quando e che forma avrebbe avuto il Jobs Act, oltre che all'elemento congiunturale per cui se l'economia riparte un po', qualcosa arriva anche sul fronte del calo della disoccupazione. Allora, di nuovo in diretta, stiamo parlando del primo calo da mesi della disoccupazione che non fa primavera. Però, professor Garibaldi, premesso, come lei ha chiarito molto bene, che non c'entra nulla la stagionalità e quindi i lavoratori presi per un mese per il mese di dicembre, anche lei è d'accordo che vi possono essere altri dati positivi, come suggerisce l'Istat, la Banca d'Italia, il Centro Studi Confindustria, anche perché alcune imprese hanno aspettato prima di assumere, visto che stava cambiando la riforma, stava cambiando la legge sul mercato del lavoro? Allora, ripeto, l'occupazione è un dato certo e dobbiamo essere contenti dell'aumento. La disoccupazione, che è calata, dobbiamo leggerlo con più attenzione perché abbiamo anche un aumento dell'inattività, quindi il fatto che sono aumentate le persone che non cercano nemmeno allora, lavoro. Allora, devo interromperla subito perché la disoccupazione fotografa e misura chi tra quelli che cercano lavoro non lo riesce a trovare. L'occupazione invece prende tutti quelli che potrebbero lavorare, anche chi non vuole lavorare perché ha per i motivi suoi, perché preferisce stare a casa, e dice quanti tra quelli che potrebbero lavorare non lavorano. Sono due cose diverse, perché tu puoi avere un calo della disoccupazione anche perché alcuni che prima cercavano lavoro non lo cercano più, rinunciano, esatto. Non sono più disoccupati per l'Istat, ma non sono neanche occupati, prego. Esattamente, quindi il dato di occupati dobbiamo essere soddisfatti, la disoccupazione dobbiamo aspettare secondo me ancora qualche mese, perché quando vediamo che l'inattività aumenta dobbiamo sospendere, visto che sono tanto dati mensili. Pronto? La sento bene, prego. Sì. Ok, quindi questo sospendiamo un pochino il giudizio fino al prossimo mese. Mentre è particolarmente sorprendente, perché se mi avesse chiesto, diciamo, qualche giorno fa cosa succederà all'occupazione, io mi aspettavo che le imprese, visto che arriverà il Jobs Act, diventerà legge dello Stato tutti gli effetti, ci saranno anche dei benefici fiscali, ricordiamoci che la decontribuzione per 3 anni, noi abbiamo fatto un calcolo come Sole 24 Ore, hai un risparmio tra prendere uno a tempo indeterminato e uno come Coco Pro, hai un risparmio che va dal 40 al 16% a seconda del reddito, prego. È molto significativo, no? Quindi se dovevo assumere in qualche modo avrei aspettato, quindi io stesso non avrei previsto un aumento dell'occupazione. Indubbiamente questo effetto in qualche parte ci deve essere stato, perché molti imprenditori hanno detto ma io aspetto marzo per quando sostanzialmente il Jobs Act sarà pienamente operativo. Quindi tra tutti gli effetti, tra l'effetto Draghi, tra il petrolio, dobbiamo aspettarci che in qualche modo l'occupazione nel 2015 vada meglio di quanto andrà nel 2014. Magari non possiamo essere troppo ottimisti, forse la Confindustria è stata particolarmente ottimista nei giorni scorsi, non lo so. Ad ogni modo l'aumento del tasso di occupazione dobbiamo aspettarcelo nel 2015. Oh, ultimo aspetto che ho per lei, il Jobs Act, perché adesso lei ricordava che con i decreti attuativi arriveremo a marzo. Ci sono degli elementi importanti, io citavo la decontribuzione, che vuol dire che tu non paghi per i primi, se assumi a tempo indeterminato, non paghi i contributi per i primi 3 anni e il risparmio è tanto. È ovvio che se tu hai bisogno di un lavoratore e ritieni di averne bisogno per 6 mesi, non vai a assumerlo a tempo indeterminato, ma se tu hai bisogno di una figura professionale e magari avresti usato adesso un Coco Pro, una partita IVA, hai un vantaggio molto forte anche sul lavoro, diciamo, di tipo non indeterminato, quello che si chiama precario ogni tanto. E poi ci sono invece nuovi contratti a tutte le crescenti. Che cosa le piace di più e che cosa le piace di meno? Perché, se ho ben capito, e mi dia anche un terzo commento, è stato o no un errore non estenderla al pubblico impiego? Ma dunque, mi piace il contratto delle crescenti, mi piace, sapete benissimo che l'ho spinto. È una sua idea anche. I miei lavori, insomma miei, comunque senz'altro anche di Zuboeri, di vari colleghi, ad ogni modo, quindi senz'altro sono favorevole. Il decreto fiscale è... l'incentivo fiscale è positivo, dobbiamo stare attenti a non dare i soldi, quello che sono sempre difficili, alle imprese che avrebbero assunto comunque, quindi ovviamente quello che... Capito, ma mica ce l'ha scritto, mica ce l'ha scritto uno, però ti avrei assunto comunque in fronte. Lo so, quelli sono molto difficili, è un commento un po' forse ragionare un po' da accademico, però bisogna essere molto attenti a abbiamo pochi soldi, bisogna darli in maniera molto precisa. Quindi questo, e non sappiamo ancora per quanti anni ci saranno, sappiamo che c'è per quest'anno, non sappiamo, quindi c'è un po' di incertezza legata a quello. Quello che mi piace ancora un po' meno è che non è ancora chiaro cosa succederà alle altre parti del Jobs Act, perché il Jobs Act aveva il contratto della crescenti, che è l'elemento fondante, ma altro successo, cosa succederà al contratto a progetto, c'è un po' di incertezza e questo non è, tanto positivo. Sul pubblico impiego è chiaramente stata una scelta politica, non c'è nessun motivo economico per cui l'impianto della riforma non si debba applicare anche al pubblico impiego, in cui tra l'altro è già possibile tecnicamente licenziare. È stata una scelta puramente politica, quelle sono scelte che non hanno nulla a che fare con l'economia. Allora, mi manca la risposta però sulla parte pubblica, i dipendenti pubblici, pubblico impiego. No, come dicevo, il non estenderlo al pubblico impiego è una scelta puramente... Ah, in questo politica. Senso, mi scusi, l'avevo persa. Sì, no, è colpa mia. È una scelta puramente politica, nulla a che fare con l'economia, non c'è nessun motivo per non estendere, perché il Jobs Act non si applichi al pubblico impiego. Non c'è nessun motivo economico, e in più già oggi è possibile licenziare nel pubblico impiego, quindi estenderla sarebbe stata la cosa naturale. Hanno deciso di non farlo per motivi politici, e esiste anche la politica. E a chi dice che però attenzione, nel pubblico impiego si entra per concorso? Ma diventa poi una cosa molto tecnica, però i giuristi che si occupano di questo dicono che assolutamente è compatibile con un licenziamento per motivi economici durante poi il rapporto di lavoro. Diventa una cosa tecnicamente da giurista, ma così dicono. Ho capito, professor Garibaldi, quindi anche lei ritiene che comunque, se già si attendeva che i dati sarebbero stati positivi, ma più avanti abbiamo avuto comunque un aumento dell'occupazione, qualche dato in più positivo possa arrivare, noi saremo qui a raccontarlo, sempre con molta pacatezza, inteso come non facili entusiasmi, però se ci sono dei dati positivi, raccontiamoli. Grazie al professor Pietro Garibaldi, adesso la borsa. No, prima della borsa però una cosa ne parleremo la prossima settimana, però vi ricordate la polemica su quanto si è beccato Bonan, l'ex segretario della CISL, Bonanni di liquidazione e quant'altro. Qui c'è un'altra storia pazzesca, adesso ne parleremo più avanti nelle prossime puntate, ma è normale, lo dico la Coldiretti che rappresenta gli agricoltori, che è sempre lì pronta, giustamente il chilometro zero, l'agricoltura di prossimità, ma come cavolo fa il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo? È vero che la Coldiretti non è pubblica, per cui se ne pagano gli associati, però chiedo, in questo caso non sono soldi nostri, come ha fatto a guadagnare in 11 anni 10 milioni di euro? e l'anno scorso tra stipendio e buona uscita ha preso 1.800.000 euro, più 200.000 di TFR, 2 milioni, ma fa il segretario generale della Coldiretti. Il presidente Moncalvo della Coldiretti ha detto: attenzione, lo stipendio è così alto perché comprende anche un'indennità di fine mandato per il periodo 1982-2014. Ho capito, ma sarà anche alto perché il segretario della Coldiretti, laureato in filosofia, ma questo va benissimo, nel 2002 ha guadagnato 680.000 euro, nel 2003 1.100.000 euro, nel 2006 950.000 euro, nel 2007 guadagniamo 1 milione, nel 2013 è arrivato a 1.200.000 euro. Cioè, boh, pensate che però, analizzando i dati del Ministero dell'Agricoltura, sembra che la Coldiretti abbia versato al segretario quasi la metà dei circa 4.700.000 euro di rimborsi pubblici spettanti ai suoi centri di assistenza agricola, al che la situazione si complica e ci fa più arrabbiare, perché i soldi sono pubblici, servono per i centri di assistenza agricola. Però pensate che questo mitico Vincenzo Gesmundo, dopo, nonostante la buona uscita, i 10 milioni, i 2 milioni l'anno scorso, non ne vuole sapere di mollare. Ha cambiato il tipo di rapporto di lavoro, passando da un contratto a tempo indeterminato ad un tempo determinato. Ora prenderà solo 224.000 euro netti all'anno, sono 18.000 euro netti al mese. Oh, una volta si diceva contadino, scarpe grosse e cervello fino. Ma gli associati della Coldiretti non hanno nulla da dire, eh? Chiedo, cioè, che il loro segretario venga pagato questa cifra. Il presidente Moncalvo, a parte dire che è un'indennità in fine mandato, non ha niente da dire? Eh no, perché poi siamo bravi a attaccare il governo, i soldi, l'agricoltura. Oh, Coldiretti, tanto scriverete, chiamerete, però più che chiamare me, fammi chiamare dall'ufficio stampa. Facciamo che chi è in ascolto e aderisce alla Coldiretti chiama la Coldiretti e chiede spiegazioni. Beh, non è accettabile che un segretario prenda 10 milioni di euro e guadagni dai 700 al milione un segretario generale di un'associazione di categoria dei contadini italiani. E addirittura con l'ipotesi che secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura la Coldiretti abbia versato al segretario la metà dei 4 milioni e 7 di rimborsi pubblici spettanti ai suoi centri di assistenza agricola. Se qualcuno vuole chiamarmi, siamo qua. Ovviamente qualcuno sta dicendo: ah, ecco, lei se la prende con la Coldiretti, non con il governo. No, io ho chiesto spiegazioni. Tanto risponderà la Coldiretti e inviteremo il presidente. Come si fa a pagare un segretario 1 milione l'anno? Se per voi è normale, va bene. Allora, la borsa, voglio andare veloce perché poi c'è Tobias Piller che aspetta di ragionare con me. Flavia Carletti, Radio Corri, Sole 24 Ore. Oggi la giornata è abbastanza tranquilla, diciamola tutta: meno 0,44 a Milano, meno 0,50 a Parigi, meno 0,40 a Francoforte, meno 0,90 a Londra, meno 0,90 l'America. Monte dei Paschi, in realtà. Sì, buonasera a tutti. Monte dei Paschi è stato il peggior titolo del FTSE MIB, perdendo il 7,83% alla fine della contrattazione. È stato anche uno dei titoli più scambiati. Sul titolo ha pesato l'idea che questo aumento di capitale che si aspettano tutti da 2,5 miliardi di euro in realtà potrà essere superiore, e quindi in una situazione in cui comunque il settore bancario è stato tutto venduto, tranne, ha fatto eccezione, la Banca Popolare di Milano, MPS è stata ancora di più penalizzata proprio per questa attesa, perché è stato, diciamo, uno dei titoli che deve in qualche modo salvarsi, e quindi anche le voci gradavano di matrimonio, di attesa, qualcuno che fa un'offerta. Però di fronte a un'attesa di un aumento di capitale che non si sa a questo punto se possa essere veramente di 2,5 miliardi, ma il rischio è che possa essere superiore, a questo punto è stato completamente venduto, tanto che stamattina è stato più volte in asta di volatilità. Sì, meno 7,83, come tu ricordavi, il peggior titolo in asta assoluto di tutto il listino. Poi tra i principali Unicredit meno 2,88, Pop Emilia Romagna meno 1,60, Terna meno 1,50, non sono molti oggi i titoli in crescita o in calo. Campari meno 1,30, Ubibank meno 1,20, come Enel, Green Power, Intesa San Paolo meno 0,90. Bene, invece Tenaris più 3%, Pop Milano più 2,30, come Saipem, il 2 lo guadagna Boots Unicem e anche Ferragamo, World Duty Free più 1,90, come Autogrill, Hughes più 1,70, Telecom più 1,50, Unipolsai più 1,15 come Finmeccanica. La Popolare di Milano? La Popolare di Milano è stata l'unico titolo che si è salvato del comparto bancario, diciamo non ci sono altre novità, almeno apparentemente, rispetto a quello che era stato detto a inizio settimana di un possibile interesse da parte di una banca eventualmente estera. È comunque il titolo che però, in caso di una riforma eventuale delle popolari, potrebbe essere più appetibile magari per qualche qualcuno che fosse interessato. Qualche aggregazione. Ultimo titolo, World Duty Free, bene anche oggi ancora il fondo KKR? Sì, probabilmente sì, diciamo, nonostante la società ieri su richiesta della Consob abbia detto di essere sì aperta a eventuali opzioni, ma che al momento non c'è nulla di sicuro, comunque dopo il buon rialzo di ieri anche oggi è stato premiato dagli acquisti, perché probabilmente c'è qualcuno che veramente spera che o un fondo francese, oppure addirittura si parla anche di Dufry o gli altri francesi di Lagardère insieme agli operi di Private Equity possano veramente entrare nel capitale della società della famiglia Benetton. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi, oltre a Monte dei Paschi meno 7,80, High Real meno 7,40, Brunello Cucinelli meno 6,85%, Modelleria Brambilla più 9,26%, Vita, società editoriale. Breaking news. Interrompiamo per qualche istante dalla redazione perché ci sono novità dalla Camera, dove è in corso lo spoglio della terza votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Vincenzo Miglietta. Sì, nulla di fatto anche per questa terza votazione, a scrutinio ancora in corso, siamo oltre le 400 schede, su 1009 non è più matematicamente possibile che un candidato raggiunga le 673 preferenze necessarie per diventare Presidente della Repubblica. Ricordiamo che anche in questa terza votazione i principali partiti, PD e Forza Italia, hanno votato scheda bianca. Domani alle 9.30, quarta votazione con un quorum più basso, dovrebbe essere la volta giusta per l'elezione del candidato del PD, Mattarella, per salire sul Colle. È tutto. Allora, grazie Vincenzo Miglietta. Allora, ribadiamo, non è più possibile raggiungere il quorum, quindi di fatto fumata nera anche per questa terza votazione. Allora, il sogno di oggi è sentire Tobias Piller, che è notissimo corrispondente del Frankfurt Allgemeine Zeitung dall'Italia. Buonasera Tobias. Buonasera. Poi dopo il GR24 facciamo te l'analisi. Dire abbiamo sbagliato. Ha sbagliato la Germania in questi 3 anni? 4 anni? Come approccio? Sì o no? Poi ti faccio spiegare le cose, ci mancherebbe. Mi sembra che non abbia fatto gravi sbagli. Vabbè. Ha fatto qualche sbaglio, sì, ma non gravi. Cioè, la situazione in cui hai l'area euro non è colpa dell'austerità e del rigore. Minuti. Dunque, potremmo dire che nel 2003 fu per prima la Germania e la Francia a sfondare il tetto del 3% stabilito dal patto di stabilità, ma lì l'Italia fu morbida, molto morbida, non partirono le sanzioni. Potremmo dire che se ci fosse stato il patto di stabilità, l'unione tra le due Germanie ai tempi di Kohl non si sarebbe mai potuta fare, perché il debito e il deficit sarebbero schizzati. Ma chiedo a Tobias Piller, uno dei principali giornalisti tedeschi presenti in Italia, corrispondente dall'Italia per il Frankfurt Allgemeine Zeitung, l'autocritica. Perché dico questo? Perché dopo una linea oggettivamente dettata dalla Germania, paese più forte economicamente, l'area euro è l'unica area, non parlo di come sta la Germania, parlo di tutta l'area euro, se ha un senso ancora citare l'area, che si è beccata una doppia recessione, dove la disoccupazione è salita a livello record, siamo in piena deflazione, che ne dica Schäuble o Weidmann, anche oggi il dato segnala un meno 0,6% nell'euro 18, il debito greco è dal 120 al 180%, ha vinto Tsipras in Grecia, è fortissimo Podemos in Spagna, da noi oggi l'Eurispes fotografa 4 italiani su 10 per l'uscita dall'euro. Allora Tobias, io, l'autocritica delle volte è anche un atto, diciamo, di maturità. Dire che si è sbagliata linea economica, che questa austerità forse è servita alla Germania, che tanto andava avanti da sola, ma sta distruggendo l'area euro, forse permette, e che è stato sbagliato opporsi a qualunque manovra di Draghi, dai fondi LTRO all'ultima quanti visi, non, un po' di autocritica non si sente da quelle parti, Tobias? Guardi, cominciamo comunque, devo cominciare con quel punto del 2003-2004 quando la Germania ha sforato il deficit. Certamente a me, a miei colleghi non è piaciuto, ha picchiato molto al governo, sul governo tedesco. Annoto comunque, se le regole fossero ancora ferree come erano prima del 2003, sarebbe un po' un guaio per l'Italia oggi. E annoto anche che il deficit dell'Italia era tale quale di quello tedesco, così ha sforato l'Italia quanto la Francia e la Germania, così, per toglierci un po' questo dente avvelenato. Il punto di fondo è, mi spiace che la Germania non sia riuscito a uscire da quest'angolo che viene chiamato l'austerità alla tedesca, perché il primo punto è, se così con il deficit uno si potrebbe crescere così tanto, certamente l'Italia dovrebbe crescere più della Germania, no? E non mi risulta. E se il modello di crescita con fare debito, stampare moneta, creare inflazione, svalutare, sarebbe stato un eccellente modello, perché allora l'Italia ha voluto per forza entrare nell'unione monetaria negli anni 90 dicendo no, vogliamo quasi un euro marco, non dovete preoccuparvi, non sarà una lira. E la Germania in quel senso ha creduto a Ciampi e ad altri italiani. Adesso la Germania è molto frustrata perché dicono adesso, con le ultime decisioni a Francoforte, abbiamo un euro lira e questo pagheremo, cioè, secondo te l'euro a, l'euro a 1,13 sul dollaro è un euro lira, no? Perché quando debuttò l'euro, prima che l'Italia, andò anche a 0,89, andò anche a 0,92 sul dollaro. Ora, visto come cresce l'America e come cresce l'Europa, non la Germania, Tobias, non è la Germania tutta l'Europa, abbiamo una deflazione in corso, secondo me un rapporto 1,13 non è proprio dire che l'euro è ridotto alla lira o alla pizza di fango del Camerun, insomma, dai. Prima o poi si pagherà a stampare moneta per finanziare stati. E chi è chi è risparmiatore con polizze di assicurazione a vita o come tedeschi che hanno una pensione pubblica bassa, certamente si pagherà. Però io te lo chiedo anche perché oggi, mentre il ministro delle finanze greco Varoufakis, noi abbiamo sempre criticato e raccontato tutti gli errori che ha commesso la Grecia fino al 2008, ha detto che non ha nessuna intenzione di collaborare con la Troika. Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha detto non ci faremo ricattare sul debito. Ora però, adesso mettiamo le cose in negativo, se c'è un paese che ha ricattato gli altri in questo periodo è la Germania con i suoi veti. Adesso che la Grecia possa ricattare la Germania la vedo difficile, con tutto quello che uno può immaginare di Tsipras. Cioè, io quello che sto chiedendo è, ho capito cosa dici tu e nessuno qua ha mai detto che bisogna crescere col deficit, ci mancherebbe, ma sto solo chiedendo se tutto questo rigore, per esempio in una cosa che a me interessava personalmente più degli acquisti dei titoli di Stato, penso agli investimenti infrastrutturali di carattere europeo per far ripartire l'economia, lì c'è un'opposizione, c'è un no su tutto. Allora, quando tu dici no su tutto, no a Draghi la prima volta, addirittura ricorso alla Karlsruhe e poi alla Corte di Giustizia Europea, no a Draghi anche questa volta, cioè, dobbiamo renderci che qual è la ricetta, continuare così? Chiedo, magari uno dice, la ricetta è continuare con il rigore. Guardiamo un pochino al mondo. Ti faccio un'ultima domanda, non è che questa ricetta va bene alla Germania perché è l'unico paese o il principale paese che non ne subisce le conseguenze? Chiedo. No, ma guarda, ci sono tre parti del mondo. Ci sono i paesi come l'Asia che crescono fortemente, o il Sud America. C'è l'America che è un'economia molto molto flessibile, così che va. E ha stampato moneta al deficit all'8% l'America. Ma per questo forse mai, semmai potrebbe funzionare lì un paese senza articolo 18, senza tante altre cose. Beh, l'abbiamo levato anche qua. E poi l'Europa sta ancora con i vecchi privilegi che aveva negli anni 80-90 e non li vuole abolire. E pensa che vada avanti così come era una volta e debba sempre essere benestante. No, però quello che volevo cercare di far capire è che secondo me si può tenere assieme la necessità di fare riforme interne all'Italia come alla Francia, guarda, tu ascolti questo programma e sai che noi ce la prendiamo tantissimo con le vecchie, con gli sprechi della pubblica amministrazione e anche con le caste, gli ordini, tutti quelli che vogliono mantenere lo status quo. Quindi le riforme vanno fatte, i compiti a casa vanno fatti, ma nel frattempo è un dato, io ho visto anche 2 settimane fa Weidmann dire no, ma non siamo in deflazione, ma io non so che dati vedete in Germania, qua c'è il segno meno su tutti i prezzi al consumo, la Spagna ha fatto meno 1,5% come deflazione, l'Europa 18 è a meno 0,6. Ora qualcuno prima o poi potrà ammettere, beh forse, pur essendo necessarie le riforme in Italia, in Francia, nessuno le vuole toccare, forse l'approccio che abbiamo usato di austerità, di rigore su questi conti, di no investimenti, no stampaggio di moneta, ci ha portato in una seconda recessione, ma sono i numeri che lo dicono, Tobias, a parte sì, la Germania. Prego. La competitività si guadagna così, e la crescita e i posti di lavoro si guadagnano con riforme strutturali. E se senza riforme strutturali così i prezzi in Italia sono corsi più velocemente che in Germania, a un certo punto aumentano un po' meno, ma io non ho conosciuto nessuno in Italia ancora che abbia delle attese da deflazione, che abbia i soldi in tasca dicendo a me comunque non li spendo perché forse tra 4 mesi questa cosa lì che volevo comprare costa meno. Non ci conosco nessuno che ha questo atteggiamento da deflazione. Tanto dovrebbero gioire perché se c'è più concorrenza e prezzi ristagnano, no, aumenta. Ma tu lo sai anche che la deflazione la è causata dal crollo dei consumi, non è causata da, magari fosse causata da una migliore concorrenza, servizi e meno caste. Il problema è che qua è causata dal crollo continuo e continuativo dei consumi. Comunque, per chiudere con questo, Bia, se non è che ti devo convincere, però ci mancherebbe, perché insomma, però. Almeno politicamente, il fatto che stia avanzando in tutta Europa, cioè secondo me Tsipras, il grande elettore di Tsipras, come scriveva Adriana Ceretelli su Sole 24 Ore qualche giorno fa, si chiama Germania, cioè il più grande aiuto a Tsipras gliel'ha dato la Germania con questo atteggiamento. Un conto è punire la Grecia, un conto è umiliare i greci, o no? Neanche su questo ci siamo. Non c'è mai stata nessuna intenzione a punire i greci e certamente è una cosa non voluta che la Grecia non cresca. La Troika ha creato un programma di riforme che doveva rilanciare la crescita in Grecia, ma i greci invece di dire al posto di qualche taglio in più facciamo una riforma in più, hanno alla fine fatto sotto pressione anche tutti i tagli per mettere finalmente in sesto un bilancio totalmente disastrato che aveva un deficit di 15% del PIL, ma alla fine non hanno fatto le riforme che potevano far crescere la Grecia e la beffa per loro adesso è che quest'anno 2015 doveva essere l'anno del rilancio, lo dicevano tutte le previsioni, ma potrebbe essere che questo governo adesso stronchi questa crescita. Resta con noi Tobias Piller perché con questa musica diciamo evocativa, Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano, buonasera professore, buon anno. Buonasera, buon anno. Lei che parla il tedesco, legge il tedesco, legge i filosofi tedeschi. Commenti quello che ha detto adesso Tobias Piller, poi ho il traffico e poi vorrei capire con lei altre 2 o 3 cose di una settimana in cui dati leggermente positivi sono arrivati, non mi riferisco a Tsipras chiaramente. Sapelli. Ma Tobias Piller è molto interessante perché traduce in senso comune, in linguaggio, l'ordoliberalismo, il pensiero della scuola di Friburgo, di Walter Eucken, che era il massimo della metafisica applicata all'economia, l'idea di ordo, cioè di ordine metafisico, scrivere nella Costituzione che gli stati non dovevano fare debito pubblico, che l'individuo doveva aiutare se stesso. Per carità, parlo di economisti cristiani, antinazisti, alcuni di loro subirono la feroce violenza del Führer e soprattutto a molti emigrarono, quindi persone integerrime, ma che avevano un'idea spaventosamente arcaica e classista dell'economia, quasi come se le sofferenze dell'uomo dovessero essere ascritte a un ordo, a un ordine. Quindi un'idea teutonica di sofferenza, non a caso scuola di Friburgo, città contrastata, cattolica ma però con chiese riformate, e quindi un pensiero che non ha nulla a che fare con l'economia, con la realtà, come tipico del pensiero tedesco, eminentemente metafisico. Quando però la metafisica arriva al nostro gentilissimo corrispondente della Frankfurter Allgemeine, diventa senso comune abbastanza banale. Soprattutto lei, caro Barigioni, ha dimostrato una capacità dialettica, e lei sì che ha letto l'economia. Il signor Spielberg probabilmente saprà fare delle buoni articoletti, ma che cosa sia l'economia moderna non lo sa assolutamente. Ma come si può dire, ma vuoi dire, c'è il debito che decide? Ma è chiaramente che troppo debito fa male, ma non c'è nessun dubbio. Il problema però è che pensare che una politica si regga non sulla condivisione di sovranità. Il caro Spielberg ha in mente un'idea, quell'idea che Schmidt imputava alla Merkel nella sua ultima partecipazione a un congresso dell'SPD. Loro si seggono sull'Europa, non sono con l'Europa. L'Europa voleva dire condivisione di sovranità. E quindi, mio caro signor giornalista, che come diceva Max Weber, parlate di tutto senza nulla sapere. Vabbè, vale anche per me. Condivisione del debito, anche condivisione. Allora, Tobias Spiller, ancora in collegamento. Attendi un attimo che ho il traffico e poi vorrei la tua risposta. Vi prego di essere abbastanza sintetici, poi casomai sapere lo riavremo. Perché Sapelli dice, attenzione, qui al di là della parte diciamo, metafisica tedesca, qui l'Europa è una condivisione, non devono scandalizzarsi se c'è una condivisione, per esempio, di mettere un debito in euro, di fare degli investimenti anche per il resto d'Europa, se no di che cavolo di casa stiamo parlando se ogni componente di questa casa si fa i fatti suoi e non vuole diciamo condividere la riparazione delle scale, non vuole condividere l'ascensore, non vuole capire che quello che ha più metri in un palazzo è anche quello che spende di più e si siede sull'Europa invece che essene parte. Allora, Tobias Spiller, replica tranquillamente, ti chiedo di essere abbastanza sintetico perché ho altre domande per Sapelli sì, che riguardano... Prego. Il caro professore sembra di non essere stato in Germania ultimamente, tanto l'ordoliberalismo vuol dire che non al capitalismo sfrenato, ma il capitalismo, il mercato come un gioco su un campo di calcio con le linee ben delineate, con un arbitro, con un libro di regole, con una porta del gol che non si muove ogni giorno, viene allagato, rimpicciolito e così via. Questo è così, meglio sono le regole, meno sfrenato il capitalismo, ma meglio funziona. Ok, Tobias, però l'ultima domanda ce l'ho io per te, poi volevo sentire Sapelli, ma almeno politicamente, ti prego, su questo, poi capito, economicamente, voi hai una linea che è quella che ha la Germania e va bene. Quando sento Schäuble dire non ci faremo ricattare, però fa ridere, ma chi ricatta? La Grecia, la ricatta la Germania, casomai è la Germania che ricatta la Grecia. Però dico, politicamente... in Germania un dibattito, il dubbio aristotelico, forse abbiamo sbagliato, forse questa è pur partendo da principi corretti, eterogenesi dei fini, siamo finiti in un casino perché abbiamo Tsipras che vuole rinunciare agli accordi, Podemos che cresce, un dubbio, no? O non fa parte diciamo dell'approccio? Certamente ci sono tanti dubbi e discussioni, ma il punto di partenza è: se non valgono i contratti, i trattati, e italiani non se ne ricordano neanche, allora non ne facciamo altri. Allora così mai si può fare un altro passo di unificazione. E la frase più commentata che abbia scritto ultimamente in un commento era quella che diceva così: il credo dei tedeschi nei trattati si sfracella al cinico pragmatismo della politica italiana quotidiana. Ok, faccio notare che però oggi un sondaggio in Germania della TV privata N24 sostiene che un tedesco su due è pronto a venire incontro alla Grecia, è addirittura del 16% favorevole a un taglio del debito. Resta con noi se vuoi, Tobias, io ti ringrazio. Professor Sapelli, mi commenti questo se vuole, Tsipras e questi segnali che stanno arrivando dall'economia, la Banca d'Italia, grazie all'euro, grazie al petrolio. E grazie a Draghi, grazie Grazielli. Vorrei solo dire, ma questo sarà la realtà, che la salute dell'economia tedesca è in gran parte un bluff. Se lei va grazie Germania, per aver abbassato il livello dello le scontro. Le autostrade non funzionano, le spese pubbliche sono, le città sono malissimo gestite, i tedeschi si lamentano, si parla di mediterranizzazione della Germania. Se lei va soprattutto nelle città più civilizzate come Amburgo, e diciamo così, vede che lì la situazione sta cominciando a diventare catastrofica, e la povertà c'è anche in Germania. Ecco, quindi questo tra un po' diventerà una vera situazione drammatica, perché come noi sappiamo la Germania è la locomotiva dell'Europa che si sta fermando, e allora se la Germania ha il raffreddore l'Europa ha la broncopolmonite. Questa politica che loro hanno portato avanti, che la Democrazia Cristiana tedesca invasata dal liberalismo, che ha perso completamente la differenza tra ordoliberalismo e economia sociale di mercato, perché non ha più fatto economia sociale di mercato, sta portando la Germania sull'orlo di uno spaventoso declino. Ma questo basta solo avere un po' di mente acuta e non dei pregiudizi. Per quanto riguarda Tilipa, io ho capito che lei, secondo me, ha detto delle cose molto sagge, e chi conosce la storia greca vede che Siriza interpreta bene quella che è una tradizione minoritaria che è diventata maggioritaria. Cioè c'è in Grecia una parte della popolazione greca che è stufa del clientelismo, della corruzione delle grandi famiglie, del fatto che l'Europa, che si occupa di tutto, della lunghezza dei gamberi e di quanto devono essere larghe le ostriche, non ha mai detto ai greci: togliete dalla Costituzione quell'orribile articolo nella Costituzione che esenta gli armatori dal pagare le tasse. Lei si rende conto che cosa volesse dire? Che vorrebbe dire che gli armatori pagassero le tasse, salveremmo 1 milione di pensionati. Lei mi dirà: ma allora i capitali fuggono. Beh, allora se i capitali rifuggono da qualsiasi forma di tassazione, quel paese è irriformabile. Quel paese invece ha avuto sempre degli alti e bassi di democrazia e di dittatura, momenti di gestione. Quindi Filippa, secondo me, interpreta questo senso di riscossa. È un partito legato alla sinistra più consapevole, più vicina a quello che un tempo era l'eurocomunismo. Lei ha fatto molto bene a citare Varoufakis. Varoufakis è un economista originale, non ortodosso naturalmente, è un neo keynesiano con una puntatina di marxismo, ma soprattutto quello che mi piace di Siriza è la capacità negoziale, pragmatica. Ha fatto una bellissima scelta, quella di allearsi con un partito di centrodestra anti-austerità, che così gli copre un po'. Allora, professor Sbagli, io devo fermarla perché mi è finito il tempo, però la riavrò ospite chiaramente, e ringrazio ancora Tobias Spiller. Mi dica solo in una battuta, però, perché devo lasciare la linea. Sì. I dati arrivati questa settimana, lei ci crede, insomma, che potrebbe cambiare? Io credo che siano dei dati incoraggianti. Non so quanto potranno essere stabili, è difficile fare una previsione, ma vuol dire che il nostro problema è di domanda interna. Se si è fatto qualcosa, e questo governo Renzi, pur tra mille contraddizioni, io sono contrarissimo ad esempio alla sua riforma sulle banche popolari, ma bisogna riconoscere che ha creato un aumento della domanda interna, e questo vuol dire che, a differenza di quelli che pensano i teorici, appunto, che abbiamo sentito prima col senso comune, è la domanda interna che bisogna aumentare. Se questo sono i primi effetti, ben vengano, allora, perché bisogna di essere liberi da pregiudizi. Benvenga. Allora, grazie a Tobias Spider, grazie a Giulio Sapelli, con cui tornerò invece a discutere e forse anche a litigare sulla riforma delle banche popolari. Da Sebastiano Barisone un ringraziamento infine a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Un augurio di buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.